giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'infortunio mortale di Osoppo, la procura di Udine attende gli atti per aprire un fascicolo per omicidio colposo. L'azienda sanitaria, il 30% delle irregolarità che riscontriamo riguardano la prevenzione delle cadute dall'alto. L'assessore regionale alle attività produttive Bini presenta i 20 distretti del commercio del Friuli Venezia Giulia insieme ai rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte. Incontro a Trieste tra l'assessore all'urbanistica, i tecnici e i rappresentanti della proprietà carinziana dell'ex fiera. Su richiesta delle opposizioni, gli interventi sul comprensorio saranno dibattuti anche in consiglio comunale. Aumento dei canoni, riduzione del numero di immobili sul mercato, lunghe liste di attesa per le case popolari, degrado nei complessi ATER, le denunce di Adesso Trieste sulla situazione abitativa in città. A Pordenone già 144 donne si sono rivolte al centro antiviolenza nei primi 5 mesi dell'anno, 7 le case rifugio gestite sul territorio. A Palazzo Gregoris un convegno dedicato a fare il punto della situazione con tutti gli attori coinvolti. Importanti nuove cure all'orizzonte per le malattie della retina, in particolare per quelle che affliggono i diabetici. Se ne parla da oggi al congresso internazionale che porta a Trieste più di 1300 oculisti. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Trieste ha progettato e testato due nanoparticelle in grado di trasportare nella cellula terapie a base RNA e DNA per contrastare la progressione di tumori molto aggressivi. Le 12:32, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Lara Zani. In apertura ancora l'incidente sul lavoro di ieri dove è morto un operaio alla Fantoni di Osoppo. Sarà la procura di Udine a ricostruire la dinamica dell'incidente. Al momento non è stato ancora aperto un fascicolo, ma lo sarà a breve per omicidio colposo, non appena saranno trasmessi gli atti di indagine. Intanto il settore della prevenzione dell'azienda sanitaria fa sapere che nel 30% delle irregolarità che vengono rilevate durante i controlli, queste riguardano la prevenzione delle cadute dall'alto. Il servizio. È stata una caduta dal tetto che stava pulendo a uccidere sul colpo il 43enne Abdellatif Sabili, residente a Osoppo. Fatale l'impatto col suolo dopo aver sfondato un lucernario. In regione circa il 30% degli infortuni o dei comportamenti che possono sfociare in infortuni sul lavoro riguardano le attività in quota, indica Tullio Poian, direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Il suo dipartimento si occupa di circa 450 ispezioni all'anno nei cantieri edili e un migliaio che riguardano anche le aziende. Sabili stava effettuando un'attività di manutenzione per la Fantoni, ma alle dipendenze di una ditta esterna, la cooperativa Ideal Service, di cui era socio lavoratore dal 2020. In casi come questo, i due responsabili del servizio prevenzione e protezione, sia della ditta A che della ditta B, stilano assieme un documento di valutazione dei rischi interferenti affinché si possa lavorare in sicurezza, indica Poian. In generale, per il lavoro in quota, è bene preferire dispositivi collettivi come ponteggi e parapetti per evitare le cadute perimetrali. Per evitare quelle interne è utile una rete anticaduta, mentre per gli interventi di manutenzione si può pensare a linee vita, ovvero un cavo d'acciaio con diversi punti di ancoraggio a cui collegarsi. Sarà l'indagine della Procura di Udine a stabilire la dinamica dei fatti. Gli atti arriveranno a breve e sarà aperto un fascicolo per il reato di omicidio colposo. Il presidente di Ideal Service, Marco Riboli, è in contatto con i parenti di Sabili per un incontro. La vicenda ha colpito tutti noi, ci dice, come cooperativa, e faremo tutto ciò che serve per sostenere la famiglia, oltre a dare completa disponibilità agli inquirenti per le attività di accertamento. Nel pomeriggio alla Fantoni era già in programma un incontro con le rappresentanze sindacali unite, ed è previsto un presidio davanti alla fabbrica organizzato dai sindacati. A Osoppo intanto l'impianto è ripartito, è stata posta sotto sequestro la zona del tetto con il lucernario rotto in cui è avvenuto l'incidente. La Fantoni per il momento preferisce non rilasciare ulteriori dichiarazioni in attesa di conoscere gli sviluppi dell'inchiesta. Osoppo, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un uomo ferito in modo grave e una donna in maniera più leggera sono stati soccorsi dal personale medico-infermieristico dopo che le rispettive auto si sono scontrate frontalmente. L'incidente è accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:30, nel territorio comunale di Sacile, lungo la ex provinciale 15, in località Cavolano Schiavoi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sacile, che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto due ambulanze, un'auto medica da Pordenone e un elicottero di soccorso. La donna è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, in codice giallo. L'uomo è stato condotto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con l'equipe dell'elisoccorso a bordo, instabile, in gravi condizioni. L'assessore regionale alle attività produttive Bini, insieme ai rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte, ha presentato questa mattina i 20 distretti del commercio del Friuli Venezia Giulia. Davide, che si deve confrontare con Golia sul piano commerciale. I piccoli negozi dei centri storici aderiscono al progetto della regione per trovare nuova vitalità. Nascono i 20 distretti commerciali del Friuli Venezia Giulia. Oggi il riconoscimento ufficiale da parte dell'assessore regionale alle attività produttive Bini ai comuni, 123 sul totale di 215 che hanno aderito all'iniziativa, il 57%. I progetti presentati dai distretti puntano per la maggior parte su iniziative di marketing più che sulla creazione di nuove infrastrutture. L'obiettivo, dichiarato ma comunque difficile da raggiungere, dare ossigeno alle imprese del commercio e del terziario nei centri storici nella battaglia della competitività con i grandi centri commerciali. Quasi 31.000 le imprese coinvolte, ovvero l'82% di quelle presenti in Friuli Venezia Giulia. La regione ha già stanziato 6 milioni di euro a favore del bando, ma ce ne saranno altri 4,5 nella prossima manovra di assestamento. Soldi che serviranno alla realizzazione di progetti volti a promuovere e valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni dei piccoli centri, a rivitalizzare l'attrattività turistica, ma anche a creare occasioni di aggregazione e di socialità. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Escluso dalla graduatoria di merito del concorso straordinario bis, viene reintegrato. È la storia di un docente di lettere con laurea in filosofia di vecchio ordinamento, conseguita quando a disciplinare l'accesso all'insegnamento era il decreto ministeriale 39 del 1998 e che ora si è visto finalmente riconoscere il proprio diritto alla stabilizzazione. Il docente aveva infatti partecipato al concorso straordinario bis svolto a luglio scorso, superando brillantemente la prova prevista, ma l'ufficio scolastico regionale gli ha notificato l'esclusione dalla procedura ritenendo il titolo carente di un esame. In breve l'ufficio scolastico affermava che il docente avrebbe potuto fare il supplente, ma non partecipare ad alcun concorso per la stabilizzazione e l'abilitazione, se non integrando dopo oltre 20 anni dal conseguimento il suo titolo di studio con alcuni esami. Assistito dalla CISL Scuola FVG, il docente ha fatto ricorso. Ieri la sentenza definitiva del TAR Friuli Venezia Giulia. Il docente dovrà essere inserito nella graduatoria di merito del concorso e come conseguenza stabilizzato. Oggi un incontro tra l'assessore all'urbanistica Babuder, i tecnici dell'amministrazione comunale di Trieste e i rappresentanti della proprietà carinziana dell'ex fiera. Il tema degli interventi urbanistici progettati intorno al comprensorio sarà dibattuto su richiesta delle opposizioni anche in consiglio comunale entro la fine di giugno. Il comprensorio dell'ex fiera di Trieste è acquistata nel 2017 dal costruttore carinziano MID, si presenta fatiscente nel suo insieme di edifici da abbattere, come si presentava nel marzo del 2022 quando il sindaco di piazza fu invitato dal costruttore austriaco nella sede della MID a Klagenfurt a dimostrazione della solidità e delle sue buone intenzioni a costruire un avveniristico centro commerciale che avrebbe portato con sé anche spazi verdi pubblici, nuova viabilità, piste ciclabili, aree giochi per la cittadinanza. A questo scopo la giunta comunale nel 2020 ha anche modificato il piano regolatore e il piano commerciale dell'area dell'ex comprensorio fieristico, ma i lavori di abbattimento dell'esistente propedeutici a qualsiasi futuro intervento non sono mai partiti. Il piano attuativo PAC presentato dai progettisti del gruppo austriaco necessitava di integrazioni che sono in questa mattinata sotto la lente dei tecnici comunali e dell'assessore all'urbanistica Michele Babuder. La lunga attesa fin qui delle integrazioni ha creato non pochi imbarazzi anche alla giunta di piazza con una mail inavvertitamente inviata dall'assessore Rossi a tutti i consiglieri comunali alcune settimane fa. Le opposizioni il 1 giugno hanno presentato la richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario proprio per comprendere i tempi di realizzazione delle opere pubbliche annesse all'investimento austriaco. Ieri la riunione dei capigruppo e il consiglio straordinario sull'ex fiera potrebbe svolgersi già il 20 giugno. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Poche case disponibili agli affitti lunghi e canoni sempre più alti, lunghe liste di attesa per le case popolari e degrado nei complessi ATER. È il quadro dipinto questa mattina in una conferenza stampa da Adesso Trieste. Sono i contorni di una vera e propria emergenza casa, quelli denunciati questa mattina dal movimento civico Adesso Trieste. Una situazione caratterizzata dall'aumento dei canoni di affitto, dalla riduzione del numero delle abitazioni sul mercato, da liste d'attesa sempre più lunghe per le case popolari e dal degrado, in certi casi anche grave, degli alloggi ATER. Proprio secondo i dati di ATER, nell'ex provincia di Trieste sono 1.200 gli appartamenti non utilizzati e ben 2.799 i nuclei familiari in attesa dell'assegnazione di un alloggio dal comune. È per questo che Adesso Trieste ha deciso di presentare un'interrogazione in consiglio comunale per avere un quadro chiaro di quanti siano e in che stato versino gli alloggi popolari a Trieste e quali siano le azioni che la giunta ha intrapreso e intende portare avanti per far fronte all'emergenza abitativa. Ne seguirà una analoga in consiglio regionale perché la situazione, è stato spiegato, riguarda tutte le ex province del Friuli Venezia Giulia. Altro problema denunciato è quello degli affitti brevi, la cui crescita negli ultimi anni è sempre più rilevante anche a Trieste, dove ne sono stati censiti 747 disponibili su una delle maggiori piattaforme destinate a questo mercato, il 71% dei quali per più di 90 giorni l'anno. Riccardo Laterza, capogruppo di Adesso Trieste, in consiglio comunale. Ci sono sempre meno alloggi sul mercato, costano sempre più. Uno dei problemi è quello degli affitti brevi, crediamo che i comuni debbano avere il potere per regolamentarli e limitarli. L'altro è quello del recupero del patrimonio pubblico esistente, per cui su questi due temi ci stiamo impegnando a livello comunale perché ci sia una risposta a chi cerca casa e oggi non la trova. E come vi state impegnando? Quali sono le proposte che farete a livello comunale e regionale? Una mozione per chiedere che il Comune sostenga la proposta di legge alta tensione abitativa perché appunto il Comune abbia il potere di regolamentare e limitare gli affitti brevi, un'interrogazione per chiedere quale sia la consistenza del patrimonio abitativo pubblico che oggi in buona parte non è utilizzato e in Regione un'interrogazione per fare luce sulle situazioni di degrado negli alloggi dell'ATER. Trieste, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. La pagina del tempo, il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, Trieste 22 gradi, il mare è quasi calmo con una temperatura di 21 gradi, Udine 22, Gorizia e Pordenone 25, Piancavallo 15, Sappada 17, Forni di Sopra e Tarvisio 19, Tolmezzo 20, Monte Lussari 11, Monte Zoncolan 12,5, Grado 24, Lignano 24,5 con una temperatura del mare in entrambe le località di 21 gradi. E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi pomeriggio. Variabilità e saranno possibili rovesci e temporali sparsi con maggiore probabilità tra le prealpi e la pianura. Parliamo di violenza di genere. Oggi a Pordenone un convegno farà il punto della situazione con tutti gli attori coinvolti nella prevenzione. Sono già 144 le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza di Voce Donna nei primi 5 mesi dell'anno, praticamente una al giorno. Numeri in lieve crescita a Pordenone, l'aumento invece è significativo al centro di Tolmezzo, gestito dalla stessa associazione. Laura Bosi è direttrice dell'associazione Voce Donna a Pordenone. L'anno scorso ha registrato ben 80 accessi di donne, mentre quest'anno siamo già a 50 accessi. Quello è un centro più giovane che deve ancora farsi conoscere nel territorio, che però sta veramente dando dei numeri molto molto interessanti. Voce Donna, che è anche riferimento regionale per la tutela degli orfani di femminicidio, gestisce sul territorio 7 case rifugio che da gennaio ad oggi hanno accolto 12 mamme e 22 minori. A Pordenone è attiva dal 2016 anche l'associazione di uomini contro la violenza sulle donne in prima persona, che questo pomeriggio organizza a Palazzo Gregori su un convegno dedicato a fare il punto sulla situazione con tutti gli attori coinvolti. Assieme alla cooperativa Il Piccolo Principe saranno anche presentati i risultati preliminari di un progetto pilota nelle scuole secondarie. Nicola Mannucci è presidente dell'associazione in prima persona. Crediamo che sia particolarmente importante lavorare sui ragazzi e i primi dati di questo lavoro ci dicono che i ragazzi sono piuttosto confusi e disorientati, soprattutto sulle questioni di genere. Se la scuola volesse partire dall'analisi di questi dati e poi mettere in atto alcuni interventi scolastici, credo che si farebbe un bel servizio. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Lavoro femminile, le donne occupate nei settori portuale e marittimo sono meno del 10% a livello nazionale, anche se negli ultimi anni stanno lentamente aumentando un po' in tutta Italia. Si chiamano Silvia Mambrini Gregoretti e Federica Angeli. Le loro sono due storie controcorrente di donne che hanno saputo farsi strada grazie a professionalità e competenza in uno dei comparti dove i lavoratori sono ancora quasi esclusivamente uomini, quello portuale e marittimo. La piattaforma logistica è tra le realtà più aperte all'occupazione femminile, spiega Silvia Mambrini Gregoretti. Su 135 siamo in 28 in tutta l'azienda. Per quanto riguarda gli uffici amministrativi siamo il 43%, negli uffici operativi il 38%, poi negli operativi diciamo in piazzale c'è solo una ragazza per il momento, ma le porte non sono mai chiuse. Ma prima di lavorare a terra è stata tra quel 2% di donne in tutto il mondo che lavorano in ambito strettamente marittimo sulle navi, incontrando non poche difficoltà. Spesso vuol dire non riuscire a farsi ascoltare e dover fare un po' più fatica per diciamo raggiungere lo stesso obiettivo, perché non si dà per scontato che io possa stare a bordo. C'è stato un episodio particolarmente, adesso col senno del poi è ridicolo, ma sono stata imbarcata come allieva, ho due cognomi, hanno sbagliato, hanno messo il primo cognome come nome, il secondo cognome come cognome, si aspettavano un ragazzo, la scena è stata molto molto ridicola, urla, disastri, che a bordo una donna non può stare, insomma è stato... Poi in realtà la stessa persona che ha avuto tutte queste remore è stata la prima a non volere più che sbarcassi, perché si trovava molto bene. Federica Angeli invece lavora come ispettrice all'autorità portuale di Trieste e Monfalcone, dove ancora le donne in ruoli dirigenziali sono pochissime. Le chiediamo, è mai stata vittima di pregiudizi in quanto donna sul posto di lavoro? Non mi è mai capitato, c'è da dire però che ti devi guadagnare e conquistare la fiducia dei colleghi, e quindi abbiamo diciamo un compito in più, quello di dover dimostrare che valiamo, e a quel punto veniamo sempre accettate in maniera totale. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Tre giornate interamente dedicate alle più recenti innovazioni diagnostiche e chirurgiche nel trattamento delle malattie della retina, con la presenza dei più autorevoli oftalmologi italiani e internazionali. Oltre 1.300 iscritti a Trieste al Congresso Internazionale della Società Italiana di Chirurgia Vitreoretinica, in corso da oggi a sabato nel Convention Center in Porto Vecchio. Ne abbiamo parlato con Daniele Tognetto, direttore della clinica oculistica di Asugi Trieste e organizzatore del congresso. Le patologie della retina più diffuse sono numerose, ad esempio la retinopatia diabetica è una complicanza del diabete molto diffusa, può avere un trattamento medico ma anche un trattamento chirurgico delle sue complicanze, quindi la complicanza più comune è l'edema maculare retinico, le altre complicanze sono quelle che riguardano il distacco di retina trazionale, le emorragie vitreo, sono tutte condizioni piuttosto severe che richiedono a volte trattamenti cronici come l'edema maculare diabetico, altre volte trattamenti chirurgici anche piuttosto rapidi. Quindi nell'edema maculare diabetico la moderna terapia è una terapia che si basa sull'utilizzo di iniezioni all'interno del vitreo e che veicolano dei farmaci che sono in grado di ridurre la permeabilità vascolare e ridurre quindi l'edema retinico. Nelle forme più severe invece è richiesta la chirurgia, quindi anche gli interventi chirurgici servono per togliere il sangue all'interno dell'occhio, per ripristinare l'accollamento retinico nei distacchi di retina. Ci sono novità importanti nelle terapie in generale per le patologie della retina? Le novità sono molte, perché il percorso diagnostico e terapeutico delle patologie della retina è tumultuoso, quindi ci sono novità sia in campo medico, i trattamenti laser, le terapie intravitreali con i farmaci antiangiogenici di nuova generazione, le terapie chirurgiche con una strumentazione mini-invasiva che consentono, grazie anche all'uso di microscopi dotati di strumentazioni diagnostiche incorporate che servono a valutare la retina durante l'intervento chirurgico. Beh, tutte queste nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche rendono il futuro futuro dei nostri pazienti più roseo. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Trieste, in collaborazione con altri istituti internazionali, tra cui il China Pharmaceutical University e l'ex Marseille University, hanno progettato, sintetizzato e testato due nanoparticelle in grado di trasportare all'interno della cellula terapie a base di RNA e DNA in modo selettivo e mirato per contrastare la progressione di tumori molto aggressivi. Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. La Casa del Cinema di Trieste riapre l'arena all'aperto del giardino pubblico nel cuore verde del centro cittadino. Per il secondo anno, infatti, l'associazione gestisce la programmazione che inizia il 15 giugno nell'unico cinema all'aperto ancora attivo nel capoluogo giuliano. Prevede oltre 50 serate nel corso dell'estate 2023, con proiezioni di grandi successi dell'ultima stagione, cinema d'autore, classici restaurati, film per famiglie, film di animazione, titoli in versione originale, anteprime e inediti presentati sotto la sigla dei principali festival cinematografici del territorio. Finisce senza gloria la stagione dell'APU, battuta nettamente anche in gara 3 da Forlì nella semifinale di A2. I friulani, la squadra più costosa e attrezzata della categoria, palesa anche in Cassazione i difetti di una stagione intera, gioco incentrato sui singoli, giocatori di cuore troppo limitati in attacco e soprattutto l'inconsistenza nel tiro dalla distanza. Il finale è impietoso, 65-83. Sentiamo prima il presidente Alessandro Pedone e di seguito l'allenatore Carlo Finetti. È stata una stagione purtroppo difficile, lo sappiamo, è inutile, non ci nascondiamo. Abbiamo certamente l'estate scorsa fatto qualche errore in termini geometrici, mettiamola così, di costruzione della squadra, e abbiamo tentato nelle tre finestre di mercato di metterci delle pezze. Secondo me le prime due sicuramente molto bene, perché ci hanno consentito comunque di disputare un campionato di vertice, arrivando anche quest'anno in semifinale, che io ricordo a tutti non è scontato, non c'è un obbligo di vincere nello sport, uno ce la mette tutta e poi si vince o si perde, uno sconfitto esce sempre. Purtroppo questa volta tocca a noi, tocca in semifinale, ma di fronte a una Forlì che ha dimostrato ampiamente di meritare questa finale. Io credo che sarebbe da ipocriti dire che Forlì non ha meritato, credo che sicuramente noi potevamo fare molto meglio in gara 1 e onestamente lì, con molta sincerità, credo di poter dire che con un pochino più di accortezza in più potevamo portarla via, però sono stati primi in classifica nel nostro girone, sono stati primi in classifica alla fine della regular season con la fase orologio. Ad oggi non hanno mai perso una partita durante i playoff, onestamente i numeri, non solo il valore del roster, il valore dell'allenatore eccetera eccetera eccetera, ma i numeri dicono che a tutti gli effetti Forlì è la squadra da battere se si vuole andare in Serie A. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Lara Zani. In regia, per la parte tecnica, Roberto Cavallari. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.